Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È mercoledì 18 di luglio 2012, buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e state ascoltando Il Meglio di Voi Siete Qui. Sono in pratica due storie al giorno di tutte le storie che sono andate in onda durante tutta la stagione, solo per il mese di luglio però. Ad agosto ci fermiamo e a settembre invece riprendiamo con la diretta. Una storia secca al giorno, un ascoltatore al giorno e quindi la sua vita in una puntata, raccontata in un episodio. La storia che vi racconto oggi, che è la storia di Nicola, è divertente perché a tutti è capitato di vedere delle partite importanti in luoghi strani, tutti quelli che sono appassionati di calcio, gli altri chi se ne frega, di solito gli altri ne approfittano per fare delle cose che di solito non si possono fare perché c'è troppa gente o perché preferiscono fare altro. Quest'estate ci sono stati gli europei, che sono finiti come sono finiti. Non mi è mai capitato di vedere partite in luoghi speciali se non a casa, banalmente. Però mi ricordo che vidi la partita dei mondiali del 2006, la finale dei mondiali del 2006, quelli che vincemmo, giusto, nel 2006. La vidi a Parigi, il problema però è che noi la giocavamo contro la Francia, quella partita, e fu abbastanza complicato riuscire, in sostanza, a non farsi picchiare dai francesi intorno a me. E poi nel primo tempo, nel secondo tempo invece raggiunsi una trattoria italiana e lì invece fu abbastanza divertente poi andare in giro per Parigi con i francesi. Che come dice Paolo Conte, i francesi che si incazzano. Voi siete qui, @radio24.it, avete voglia di continuare a mandarci le vostre storie, come ha fatto Nicola, appunto, che parla dei, non solo di una partita dei mondiali, ma di tutti i mondiali, tutti quei mondiali lì, proprio quelli del 2006, visti in un luogo che, insomma, definire particolare è dire poco, è il Pakistan. Lui tra l'altro non si trovava in Pakistan per caso, aveva deciso di andarci per fare un viaggio e di andarci proprio in quel periodo lì. L'unico problema è che si era dimenticato due cose. La prima era che era un appassionato di calcio, la seconda è che c'erano i mondiali in quel periodo lì. Questa storia, diciamo, è molto comprensibile da tutti quelli che sono tra l'appassionato e il malato di calcio. Lo è un po' meno per tutti quelli che invece se ne battono e semplicemente, anzi, e lo è ancora di meno per quelli che se ne battono e che amano viaggiare, perché la storia di questo giovane uomo che va in Pakistan e in Pakistan invece che andare in giro e godersi il luogo fa di tutto per trovare degli alberghi dove vedere le partite. Che ci sono cose che si fanno senza pensarci troppo a volte. Io quando decido di partire per un viaggio cerco di prendere subito i biglietti, quasi di nascosto da me. E poi magari ci ripenso e più la meta è improbabile meno ci voglio pensare. Nel maggio del 2006 organizzai un viaggio in Pakistan. Partenza 27 giugno, ritorno 21 luglio. Qualche tempo dopo, quando la febbre per l'imminente mondiale in Germania iniziava a salire e tutti non parlavano che di formazioni, convocazioni e pronostici, mi accorsi di un piccolo dettaglio. Io che adoro giocare e vedere giocare a pallone, io che sono tifoso del Toro, io che ho letto Valdano e la storia critica del calcio italiano di Gianni Brera, insomma, io mi ero dimenticato dei mondiali. Pietro e Dodò, i miei due compagni di viaggio con cui sono amico da decenni, non sono appassionati come me. Hanno capito il duro momento che stavo vivendo e mi sono stati vicini. Pietro poi in Pakistan c'era già stato e mi ripeteva: guarda Nicola, nella valle di Unza ci sono un sacco di guest houses con la televisione, stai tranquillo che qualche partita riusciamo a vederla. E io mi immaginavo sulla via della seta, in mezzo ad alberi di ciliegie e albicocchi, a cercare una televisione, in lacrime, maledicendo il mio vizio di fare le cose distrattamente, straniero in terra straniera. La sensazione di essere un fesso, ovviamente, l'ho realizzato il giorno in cui sono iniziati i mondiali, perché più o meno il biglietto era stato preso un mese prima o qualcosa del genere e avevo completamente rimosso quel piccolo dettaglio. Quindi partimmo. Dopo aver battuto gli ostici australiani con un dubbio rigore al 95esimo, dopo una notte a Gilgit, ci spostammo ancora più a nord, fino a Karimabad, sempre seguendo l'antica via della seta, che serpeggiando fra monti e precipizi ti porta dritto in Cina. La valle di Hunza, così si chiama la valle che da Gilgit sale verso il confine cinese, è un piccolo paradiso, fatto di montagne e villaggi, panorami mozzafiato e gente ospitale come mai mi è capitato di incontrare. In più è un posto turistico anche per i pakistani. Molte sono le guest houses e parecchi sono anche gli hotel e i resort. dettaglio questo che si rivelerà di importanza fondamentale. Il 30 giugno, quindi, dopo aver visto Germania e Argentina la sera prima, ci rechiamo nella sala comune del Old Unsa Inn, la nostra guest house, e ci godiamo Italia-Ucraina sulla gloriosa CCTV cinese. Partita senza grande storia, vista da noi tre italiani, dal padrone della locanda, un ometto tarchiato, e dalla lunga barba bianca che ricordava un hobbit, da suo figlio che avrà più o meno 20 anni, parlava benissimo inglese e vestiva con jeans e t-shirt. Avresti potuto incontrarlo in una qualsiasi club di Torino, Londra o New York. Ah, e c'era anche un buffo personaggio, sui 50, pakistano anche lui, che diceva di aver studiato filosofia a Malta e con la sua barca arrivava in Sicilia in un'ora e mezza. La partita la portiamo a casa senza grandi patemi, ma la cosa curiosa è che noto per la prima volta la maniera in cui i pakistani mi guardano. La maniera in cui mi guardano mentre mi dimeno e tiro pugni sul tavolo. Sembra che vedano un alieno. Commentano, ridono e alla fine mi chiedono se la semifinale l'avrei vista lì, da loro, così da poter invitare i loro amici a vedere non la partita, ma me che guardo la partita. Ecco, da questo momento fa capolino nella mia mente la grande domanda. Che fare? Allora, sono in Pakistan. Chissà se mai ci ritornerò. Dunque, qui, in questo posto, le partite si vedono. Altrove, chi lo sa. Decidiamo di restare per la semifinale. Poi ci muoveremo verso il Chapursan, zona di rara bellezza che sfiora la Cina e l'Afghanistan, dove l'energia elettrica praticamente non arriva. Fra passeggiate, ciliegie e discussioni con gli altri viaggiatori, si arriva al giorno della semifinale con gli orridi tedeschi. Queste le parole dal mio diario di viaggio. Stasera ci sarà la partita. Domattina ci sposteremo verso nord, sperando di trovare una jeep per andare in Chapursan. Per certi versi mi auguro che stasera si venga eliminati, così non mi perdo la finale e soprattutto i festeggiamenti che ci saranno. Meglio essere qui, tra i monti, piuttosto che accerchiato da umanoidi sudati e ubriachi con le loro camicie bianche dai colletti affilati. Il pomeriggio lo passo presso il locale Internet Point. Spero di captare qualche segnale sul sito della Gazzetta, ma la velocità di connessione è talmente bassa che non capisco nulla di quello che leggo. Lentamente, molto lentamente, arriva l'ora della partita. Anche con la Germania giochiamo a pallone in maniera decente e contro ogni pronostico li battiamo in casa loro. Intorno a me stessa cornice della partita precedente, con qualche pakistano in più che si sbellica per le mie imprecazioni. A fine gara addirittura mi vengono a stringere la mano e a complimentarsi, manco avessi segnato io. Il ragazzo della guest house mi saluta e mi dice: la finale la guardiamo qui insieme, ok? Io gli sorrido e gli dico: mi sa proprio di sì. Alle 3 della mattina andiamo a dormire, pronti a partire qualche ora più tardi per il Chapursan, severo e senza elettricità. È il 5 di luglio, fra 4 giorni ci sarà la finale e i dubbi mi accompagnano sempre. Come al solito opto per il temporeggiamento, poi si vedrà. Intanto mi godo il viaggio in jeep di 5 ore, abbarbicato con i miei due amici e un signore che avrà 80 anni sul tetto di quella jeep che tanto stabile non è. Ancora dal mio diario di viaggio. Venendo su, oggi, pensavo all'immagine di Grosso, che correva quasi in lacrime e diceva non è vero, non è vero, dopo aver segnato. E mi sono commosso. Su una jeep, in mezzo alla sabbia, mi è salito il groppone, mi chiedevo cosa si può provare dopo aver segnato alla Germania in Germania, in semifinale dei mondiali. Qualcosa che io, senza dubbio, non proverò mai. Un paio di giorni dopo, quando ero su una jeep distrutta sul tettuccio, abbracciato praticamente a un ottantenne pakistano, vai a sapere perché mi sono rivisto quell'immagine di lui che corre verso la telecamera quasi in lacrime e mi è proprio venuto il gruppone, come diciamo, dalle mie parti, e così il pensiero di dire che bella roba che deve essere, io una di quelle cose lì non la proverò mai nella vita. I tre giorni seguenti sono al limite tra sogno e delirio. Fa caldissimo, manca la luce. Non affronto l'argomento, ma il tarlo ha ormai compiuto il suo percorso. Devo vedere la finale, a costo di tornare a Karimabad da solo. Complice il sole, la spossatezza dovuta a un paio di giorni di trekking e la dolorosa consapevolezza di non avere più 20 anni, Pietro e Dodò decidono di tornare con me a vedere i ragazzi. Alle 5 di mattina di sabato 8 luglio torniamo verso la ridente Karimabad, verso i nostri amici della guest house e la voce dei commentatori cinesi, per sentire un'ultima volta le parole Zambolota, Palota e Giatuso. Arriviamo. Il padrone hobbit della locanda ci fa le feste e ci prepara addirittura del pollo. Dopo pranzo vedo suo figlio, gli sorrido, ma lui è serissimo. Mi si avvicina, mi dice che per l'indomani ci potrebbe essere un problema. Cioè, in che senso, gli chiedo? È nel senso che da 3 giorni la luce va via in tutta la valle intorno alle 7 di sera e torna solo la mattina dopo. Me lo dice con un tono funereo e poi aggiunge: mi dispiace. Come se fosse colpa sua. Ho un attimo di scoramento, poi lo guardo e gli dico: amico mio, per me questa partita è molto importante. Cerchiamo un generatore, ci sarà uno di questi assurdi hotel pakistani danarosi con un generatore, no? Lui sorride, annuisce e mi dice: ok, ci provo. La mattina della finale, il figlio dell'Hobbit è raggiante, ha trovato un hotel che in caso di assenza della luce ci ospiterà per la finale. Io gongolo ed entro in mood prepartita. Nervosissimo e insopportabile per tutto il pomeriggio. Come da copione, la sera alle 9 la luce se ne va. Il giovane pakistano fa una telefonata e conferma che possiamo andare all'hotel. Ore 10.45, siamo lì, noi occidentali e un discreto numero di pakistani. La tele, ovviamente, non si vede. C'è una schermata fissa, pare della radio cinese, ma di immagini manco a parlarne. Passano 5 minuti e il ragazzo della guest house, palesemente in difficoltà, mi dice: ok, chiamiamo un tecnico. Ore 10.55, una jeep arriva letteralmente sgommando nel cortile dell'albergo e scende il tecnico. Fuori è tutto buio, nella sala gli occidentali chiacchierano, i pakistani arrivano e prendono posto, io soffro. Ore 11.05 ancora nulla, ore 11.10 compare l'immagine, applausi, felicità. Poi alzo gli occhi e vedo il punteggio in alto a destra, 1-0 per la Francia. Mi accascio su un cuscino, per terra. Da quel momento però, solo più gioia. Ancora le ultime parole dal mio diario di viaggio scritto alle 2.10 del mattino. Campioni del mondo, nel posto più assurdo che potessi immaginare, in una sala con divani e un enorme tappeto appeso con un orso orripilante disegnato sopra, campioni del mondo. A Karimabad, coi francesi, l'australiano e 15 pakistani che applaudivano. Gli ho pure fatto l'inchino a fine partita. All'inizio non si vedeva nulla, poi arrivano le immagini verso le 11.10 e i francesi sono già avanti 1-0. Non hanno neanche fatto vedere un replay del fallo da rigore, solo il tiro di Zizou. Nell'hotel non c'era nessuno che capisse una cippa di calcio. Gli oh per ogni minima azione, la tensione, il gol di Materazzi, il colpo di testa di Zidane parato da Gigi, il tiro fuori di Ribéry, la nostra traversa e il sudore. La stanza caldissima, noi che giochiamo peggio, ma che reggiamo. Sono diventato campione del mondo a 34 anni in Pakistan e ho solo potuto abbracciare Pietro e Dodò, ma mi è bastato. Avrei voluto essere a casa per poter stringere tutti, ma quando ho visto la palla di Grosso entrare non ho capito più niente. Sono saltato addosso ai due compari. Adesso festeggiamo sotto le stelle, perché la valle è tutta buia. C'era luce solo dove eravamo noi. Finale del 2006, ero in Perù, in un locale italiano con mia figlia adottata, bellissimo Antonio. 1985, Juve-Liverpool, sotto le coperte della branda del militare guardando una TV Casio da 3 pollici. Italia-Brasile 3-2, mondiale dell'82 vista con mio nonno in un piccolo video 7 pollici in campeggio. E poi ancora, io interista ho visto Inter-Juventus del famoso rigore di Giuliano, me lo ricordo, in uno Juventus Club. Di quell'episodio si sentiva solo la mia incazzatura nella sala. Simone da Ravenna, andiamo in Pakistan invece, anzi no, andiamo a Bra, credo. Pronto Nicola? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, grazie. Grazie per il tuo racconto. Grazie a te per averlo letto. Grazie davvero, perché è stato un attimo, a parte che queste sono quelle occasioni, no, come i mondiali, le grandi tragedie e le grandi gioie in cui tutti pensano dove ero io quando è successo, e sapere che tu eri in Pakistan. Però sei a Bra in questo momento. Sì, sono a casa oggi. Ah, non sei al lavoro? No, essendo freelance è una scelta che comporta più tempo libero e meno denaro, ma è un buono scambio. Senti, che cosa vuol dire essere tifoso del Toro? Quanto tempo abbiamo? Guarda, 2 minuti mi sa, non di più. Non lo so, beh, io sono non mi immagino come penso ogni tifoso, anche essere interista o di squadre innominabili. Altre penso che ognuno abbia le sue caratteristiche. Per me fondamentalmente è stata pochissime gioie e tantissimi dolori. C'è chi dice che però in realtà essere tifosi tipo del Toro è più facile, perché non ti aspetti niente e tutto quello che arriva è buono. A che punto è in classifica il Torino quest'anno? Siamo primissimi, giochiamo un calcio spumeggiante come non si vedeva da secoli. Senti, siamo un po' anche imbarazzati da questo. Tra l'altro ho la sensazione, correggimi se sbaglio, che quelli che lavorano per Slow Food siano tutti tifosi del Toro. Ce n'è un buon numero, ma c'è anche una sacca juventina, ma che sono in minoranza e sono assolutamente subissati. Senti, di improperi. Dimmi cosa ti ricordi del Pakistan invece? Mi ricordo un viaggio bellissimo, spossante, per il calore, per le strade, la gente più ospitale, come hai anche detto tu, che abbia probabilmente mai trovato. Mi sono trovato a casa di gente sconosciuta a bere tè senza che loro capissero cosa noi dicevamo, e ovviamente viceversa. Ma perché hai scelto il Pakistan, scusami? Perché fondamentalmente mi piacciono molti posti desertici e montagnosi. Mi sono innamorato del Ladakh, che è nel nord dell'India, nel 97. Ci sono tornato diverse volte, mi è piaciuta molto la Siberia. Ma scusami, non sono un tipo da mare. Ma nel 2006 il Pakistan era già un posto pericoloso? No. Ok. Assolutamente, infatti quel viaggio lì credo che oggi non sia più fattibile. In verità la Valle di Hunza è una valle molto, molto turistica, perché è la valle che ti porta in Cina, tu proseguendo. Sì, ma infatti devo dire che dai tuoi racconti si è capito che è un posto meraviglioso. Nicola, grazie ancora davvero di tutto. Grazie a te, buona giornata. Voi siete qui, @radio24.it. Oggi è sempre il 18 di luglio e non so come faccio a ricordarmelo, ma esattamente il 18 di luglio di ormai 20 anni fa, io tornavo dal mio primo viaggio da solo. Sapete i viaggi organizzati in Inghilterra, in teoria a studiare inglese. 3 settimane a Brighton, che è la Rimini dell'Inghilterra. Poi stavo in realtà in un paesino vicino a Brighton che si chiamava Woodindin. Vabbè, questo è meno interessante. Quelle sono proprio le prime vacanze che si fanno da soli, in cui di solito succedono delle cose. Ecco, a me non è successo, ma il motivo per cui ho molto amato il racconto di Eliano che sto per raccontarvi è che invece a lui sì. E quindi c'è stata una forma di transfer mentre leggevo il suo racconto e ho sperato di essere lui all'età in cui questa cosa gli è accaduta. Il racconto, per farvi capire, si intitola Partito Vergine. Ed è la storia di questo ragazzino che parte in una bollente Malpensa in un giorno che credo fosse... Sì, eccolo qua, proprio il 24 di luglio, quindi uno di questi giorni qua roventi estivi dell'estate italiana, parte e se ne va in Svezia, per l'esattezza a Malmo, a fare una cosa che ha a che fare con l'hockey, mi pare, hockey su prato, no, forse proprio hockey su ghiaccio. E lì, diciamo, l'hockey è l'attività principale, ma quello che gli succede, come potete intuire anche dal titolo, è soprattutto un'altra cosa. Ho 16 anni e finalmente parto per la Svezia. Sono almeno 4 anni che spero e voglio andare a fare il mio sospirato ritiro. Gioco ad hockey su ghiaccio in una squadretta di Torino e la Svezia, per i giocatori di hockey, è un po' come l'America per il baseball o l'Olanda per il pattinaggio. Sono così felice che mi sembra di non avere più niente da fare qui, quindi devo solo partire. Ho iniziato giocando a pallone, no? Però avendo un papà patito del ghiaccio, quindi sempre andato a pattinare sul ghiaccio, mi portava spesso al palazzo di ghiaccio. Un giorno ho incontrato un suo vecchio amico che in combinazione faceva l'arbitro di hockey, mi ha prospettato questa cosa, io pronto e subito, no? Insomma, scalpini e pallone, una cosa, la mazza, il casco, le impredature, i pattini, insomma, è un fascino diverso, quindi ho iniziato. È il 24 di luglio e a Malpensa fa caldo, ma io lo sono ancora di più e quasi non lo sento. Sorrido, saluto i miei e mi imbarco. Il volo è tranquillo, è la prima volta che prendo l'aereo, ma è bello, vado in Svezia a giocare ad hockey. Sono un sedicenne in Svezia, anzi no, sono un sedicenne vergine in Svezia. Arrivato a Malmo penso, bello, anche a luglio qui fa fresco, qui c'è il ghiaccio. Dunque, ah ok, io sono scarso nel senso che non sono il figlio dell'allenatore, quello che ha preso la mazza in mano già a 4 anni ed è cresciuto con il padre che vuole che tu sia già bravo a 5 anni. No, mio padre pattinava e guardava le donne. Ecco perché ho imparato a pattinare, per fare colpo sulle donne. Ci penso e mi torna in mente che sono un sedicenne vergine in Svezia. Arrivati a Malmo, da Malmo si parte per Tiringhe. 2 ore di viaggio su un pulmino profumato ma scomodo. Foresta, foresta, foresta. E poi la meta, anzi, una scuola, la scuola, quella superiore di Tiringhe. Ecco, quello era il nostro alloggio, tra cartine geografiche e scritte sul muro, incomprensibili ma immaginabili. Senza capirle, ho compreso che siamo tutti uguali, a 16 anni. Il bagno aveva una piccola insegna in legno, con scritto sopra Toa. Un po' per assonanza con il francese ho trovato subito dove dovevo andare dopo quelle due ore di viaggio. Tutto il resto invece era alieno. Le voci, i suoni, gli odori. Furono due settimane di sport intenso, dalle 7 alle 19, tutto il giorno. Corsa, ghiaccio, atletica, ghiaccio, pranzo, sauna, un po' di autoerotismo, ghiaccio e atletica. L'autoerotismo è durato due giorni, fisicamente non era sostenibile. Stavo magnificamente, è bastato qualche giorno per accorgermi che i miei ormoni rendevano tutto magico, tutto bello, tutte incredibili, le donne, candide, con i capelli di seta e delle tette che non se ne erano mai viste. C'erano diversi ragazzi di più nazionalità, la maggior parte europei, ma c'erano anche canadesi. E noi chiaramente come italiani eravamo i più cacciaroni. E gli scherzi, e girare per il paese a guardare una donna dietro l'altra, e a meravigliarsi del fatto che fossero tutte belle, o a chiedersi se avevano richiuso quel booster, perché era impossibile. Ma probabilmente quando si viaggia si richiede che tutto sia meglio. Le ragazze del paese, a mio avviso tutte meravigliose, si intrattenevano alle latre della scuola fino a tardi. I compagni di viaggio svedesi e norvegesi erano molto disinvolti, ma discreti, come i tedeschi e i danesi. Noi italiani, invece, allupati e senza ritegno. A 16 anni, pur essendo uno studente modello, non si riesce a sostenere una conversazione in inglese. Figuriamoci, io non ero una cima a scuola, quindi per me una conversazione era proprio impossibile. Alla fine della mia esperienza, l'ultima sera, Annika Martinsson, bionda, 17 anni, sorriso che illumina e seno di granito, mi chiede di passare la sera con lei. Il giorno dopo torno a casa. A Malpensa mi accolgono mio padre e mia madre, io, il mio borsone e la mazza. Ero in Italia, avevo 16 anni ed ero partito vergine. Non so bene cosa, forse immaturità, forse in virilità, se sei un uomo, o in femminilità, se sei una donna. Quella forma di perdita però ha qualcosa a che fare con la crescita. Tutti ci passano, cioè quasi tutti ci passano. E come tutte le perdite c'è sempre un misto di dolore prima, di sollievo poi e alla fine anche un briciolo di liberazione. Quando ho letto il racconto di Eliano ho avuto la sensazione che avete presente quello che si dice riguardo ai tempi che cambiano e che oggi la prima volta è diversa da com'era tanti anni fa. Ecco, ho proprio avuto la sensazione che sono tutte vaccate. Mi è venuta in mente una sera di un paio d'anni fa, una sera d'estate, in cui mi sono trovato in mezzo a un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 17 anni che si sono messi a parlare proprio di quella cosa lì, della prima volta. Anche in quel caso, come è stato per Eliano, era estate ed era una scuola, non di hockey in quel caso, era una scuola di vela. Era stata la solita giornata di vento forte e il corso era quasi finito. Tutti i ragazzi si conoscevano così bene che condividere storie come quelle era abbastanza facile. Eravamo al riparo dal vento in una sorta di aula con una lavagna e delle panche. In realtà l'aula però è una cocomeraia fatta di cannucciato e foglie secche. E come sempre succede, uno di loro ha iniziato a raccontare e a ruota sono arrivati tutti gli altri. Pietro, 16 anni. A me è successo l'anno scorso con la mia ragazza. Eravamo a casa sua. I suoi erano usciti per fare un giro. È successo in modo abbastanza naturale. Non ne avevamo parlato molto e alla fine non so se le è piaciuto. A me sì, molto. Poi ci siamo lasciati. Ora lei sta con uno di 18 anni che ha una Smart gialla. Paola, 17 anni. Io l'ho fatto 3 mesi fa con uno che conoscevo appena. L'ho fatto sinceramente perché dovevo togliermi il pensiero. Eravamo ad una festa in montagna. Siamo andati in camera sua e in 10 minuti è finito tutto. Sinceramente speravo meglio. La prima volta tutti dicono che va così. Chiara, 15 anni. Ragazzi, io non l'ho ancora fatto, ma ne sto parlando con il mio ragazzo. Piera, 16 anni. Lo ammetto, l'ho fatto 2 sere fa con uno qui della scuola. Non posso dirvi chi è, però, è perché mi imbarazza. È stato splendido. Siamo saliti su una barca giù al molo e ci siamo baciati per un'ora. Poi lui mi ha spogliato e in un attimo avevamo fatto. Non ho sentito molto male, ma mi sa che non lo amo. Giulio, 18 anni. Io l'ho fatto a 14 anni con un'amica di mia sorella. Era piccola e grassa, aveva 18 anni e a me sembrava una vecchia. Mi ricordo che ero in camera mia e lei è entrata, sentivo le altre che ridevano dietro la porta. Oh, ha fatto tutto lei e poi se n'è andata. Non è stato bellissimo, ma me ne sono vantato fino a ieri con gli amici. anche se non ho mai confessato chi fosse lei. Petra, 17 anni. Io e il mio ragazzo l'avevamo programmato 6 mesi fa, per il giorno del mio compleanno. Lo progettavamo da mesi, ne avevamo parlato un sacco. Avevamo deciso come doveva essere la sera, che luci accendere, che musica ascoltare, come sarebbe stato vestito lui e come sarei stata vestita io, cosa avremmo mangiato prima e cosa avremmo bevuto dopo. È finita che era tutto pronto, tutto tranne lui.